Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti, benvenuti in frequenza. Sono le 21:05 minuti di oggi, martedì 10 luglio del 2012. Benvenuto all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto. Buonasera da parte di Flavio Bilato e da Maurizio Calzavare, che insieme a me conduce questa trasmissione a base di live. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, anche questa sera ospiti d'eccezione, sono venuti a trovarci dei personaggi quasi delle fiabe, a giudicare da il nome, però quando sentiremo la loro musica diremo che di fiabe hanno veramente poco, però è sempre un piacere sentirli. Avrete modo di ascoltare in quest'ora e mezza che passeremo insieme quella che è la musica dei Brucalif. Ecco qua, buonasera ragazzi, benvenuti. Buonasera. Allora, Brucalif in versione ridotta questa sera sei tu, Andrea, accompagnato dal bravissimo Andrea Ventimiglia, che non viene da Ventimiglia ma ben da più vicino, no? Sì. Da Mestre, sì. Da Mestre, benissimo. E poi abbiamo l'accompagnatore che vi ha fatto strada. Supporto, ecco qua. Benissimo. E allora, Brucalif, innanzitutto complimenti per il nome, perché in mezzo a tanti nomi magari anche di eccezionale impatto sonoro avete scelto un qualcosa che forse attirava più un pubblico giovanile, ma quando intendo giovanile intendo dai 3 ai 7 anni come nome, no? Sì, cioè... In realtà poi vi spostate molto più in là, quindi Brucalif ricorda quel personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie che faceva più o meno eccola. Allora Brucalif, perché siete rimasti contagiati da questa figura così particolare, così evanescente? Sì, il nome è nato in un periodo verso il 2007-2008 in cui c'era la grande esplosione di tutte le band con il D davanti, The Strokes, sì. The Killers, The Hives, e via discorrendo, che era anche la musica che più ci ha coinvolto in quel periodo. E però noi volevamo avere quel che, però senza omologarsi ai De, e quindi abbiamo messo davanti un Le alla francese. Un Le alla francese, Le Brucalif. Anche se di francese la vostra musica non ha proprio niente, se non magari in questa serata dove viene usato uno strumento davvero particolare che si chiama organetto, che poi naturalmente ricordiamo ai nostri ascoltatori che potremo vedere all'interno del nostro sito internet, nella pagina riservata ai Brucalif, anche quelle che sono le foto scattate nella serata e anche la strumentazione di cui sono dotati nei loro esperimenti, diciamo, signora acustici. Strumentazione. Una signora strumentazione. E vorrei proprio sapere l'origine dell'organetto. Tu hai detto che non parli, però l'origine dell'organetto, c'è chi l'ha portato un po' di tempo fa, risaliva al 1978 e l'ha comprato in Germania. Non so te dove l'hai comprato praticamente. No, io l'ho trovato in un mercatino dell'usato poco tempo fa. Vedi, siamo là praticamente. Vedi che si fanno i buoni affari. Si trovano anche i dischi ancora in ottime condizioni, belli da ascoltare, ma si trovano anche gli organetti che naturalmente uno compra a scatola chiusa, poi prova a casa, se va, altrimenti c'è qualche transistorino da cambiare. Questo sicuramente va, l'abbiamo appena ascoltato in prova, va benissimo. Sì, avrete modo di ascoltarlo. Allora, le Brucalif sono arrivati qui a Blu Radio Veneto con un album in formato breve, diciamo, che racconta della vostra storia del 2012, mentre sappiamo che Brucalif risale a un po' di tempo fa. Sì. Andrea, vogliamo ripercorrere brevemente quella che è la storia di Brucalif? Sì, questo è un EP, noi non abbiamo ancora registrato un vero e proprio album, ci teniamo a dirlo, nel senso che ci identifica anche un po' come cosa. Adesso iniziano a essere anche già tre, perché il primo proprio di debutto risale al 2008, l'abbiamo registrato nella taverna proprio di un nostro amico. È quello che avete chiamato in inglese 24 Mozart. Sì. Ecco là, sì. Sì, è stato anche lì proprio un colpo di genio al momento, proprio perché la via di dove questo nostro amico abita, Gradisca di Sonzo, si chiama Via Mozart e la sua casa è al numero 24. E inoltre noi avevamo 24 anni quando ci siamo trovati lì a smanettare con i suoi aggeggi, e quindi così 24 Mozart e suonava bene, insomma. Benissimo, allora vediamo come suona bene il vostro disco prima di proseguire con la nostra conversazione, tanto per far capire ai nostri ascoltatori di che musica stiamo parlando. E quindi diamo spazio subito al primo pezzo tratto da questo EP che si intitola T-Runner. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Veneto. Blu Radio, Radio Sera. Blu Radio Sera. E allora abbiamo cominciato con la nostra strada verso l'incontro con i Brucali, le Brucaliffs, con l'ascolto del primo pezzo tratto da T-Runner, si intitola Alibi, o vogliamo dirlo all'inglese? Alibi. Alibi, eccolo qua. Allora, che più o meno lo stesso significato, no? Mi sì, è proprio lo stesso, identico. Ecco, bene. Allora, in Alibi c'è questo senso di alienazione che, di cui qualcuno viene preso. Ah, sì. Proprio alla forza multipla. Sì. Ma cosa succede esattamente in questo pezzo? Allora, Alibi, il testo in particolare, è proprio figlio della situazione politica, ma direi proprio socio-culturale che si respirava in quei giorni quando l'ho scritta, ed era tutto lo scandalo delle escort, non si possono dire parolacce, quindi no, no, solo escort, va bene, abbiamo già capito. Che ricorda molto anche una Ford. Sì, sì, però io intendo proprio le escort. Sì, sì, quelle delle Ford, sì, esatto. Le mala femmine di Totò, che entravano, uscivano, sì, da tutte le parti nella nostra politica. E quindi alienazione, cioè proprio rabbia, mi ricordo che era proprio un sentimento che mi portavo dietro in quei giorni per... il fatto di guardare sopra quello che abbiamo, chi ci rappresenta, chi stava, per fortuna stava, portando avanti il nostro paese, e quindi sentirsi proprio completamente, sì, alienati. E nonostante tutto questo che stava, ha ancora delle canzoni, diciamo, dedicate, tra virgolette, a lui in questo caso. Eh beh sì, ma poi il bello della musica è che in realtà qualsiasi cosa, a meno che non ci siano nome e cognome, possono essere interpretate a proprio piacimento, e in generale è proprio lo spirito di questa canzone, è proprio un po' di rabbia, dice break the ranks, quindi rompi le barriere, sì, è proprio un po' lo spirito della rivolta, Alabai, come sentimento. Musicalmente non è una fase negativa, e può darsi che sia una musica un po' che nasce da lontano, da dietro, da un po' dietro nel tempo. Un critico ha scritto che siete vicini tra virgolette ai Kasabian, sì, questo modo di prendere i suoni. Secondo me siete un po' vicini alla fase psichedelica, esoterica, qualcuno ha parlato. Come mai questo discorso musicale, questo arrangiamento un po' particolare, questa voce che si rincorreva un po', sì, filtrata la tua? Beh, proprio poi in quel periodo, proprio ricostruendo tutto, poi ascoltavo tantissimo gli album dei Beatles, proprio quindi di quelli, i Beatles più sperimentali, esattamente, soprattutto Tomorrow Never Knows e la voce di John Lennon, e proprio qualsiasi cosa registrassi volevo che avesse quell'effetto, che fosse filtrata così, e quindi mettendo insieme tutte queste cose è venuto fuori questo pezzo, e poi anche gli strumenti, gli arrangiamenti ne hanno risentito, soprattutto nella parte strumentale. Sì, un buon impatto, essendo il primo pezzo del disco, è coraggioso, di solito il primo pezzo del disco, Flavio sicuramente mi dà un appoggio, è molto più appetibile, molto godibile, deve essere accattivante. No, questo è proprio come una specie di pugno nello stomaco. Appunto. Sì, sì, sì. In effetti, anche perché comincia molto cupo, no? E dopo cominciano a intravedersi i suoni un po' più avanti, e diciamo che forse mette un po' così sul chi va là l'ascoltatore, che ancora non sa a che tipo di musica va incontro, ma abbiamo fatto lo stesso esperimento adesso noi con i nostri ascoltatori. Quindi ricordiamo ancora il titolo, T-Runner, le Brookalif. T-Runner è sempre un altro rappresentante di Alice nel Paese delle Meraviglie? No, in questo senso non nella maniera più specifica, ma anche questo è un gioco di parole, perché se lo pronuncia l'americana dice Tirana. Proprio. Ah, Tirana, come la città. Esatto, come la città, perché il nostro proprio fondatore, noi ci chiamiamo Bruchi fra di noi, il Bruco fondatore, adesso vive a Tirana. E quindi diciamo che anche questo EP è un proprio figlio di questa specie di piccolo terremoto che è venuto dentro la nostra band, e quindi... è un po' la risposta alle nostre domande. Adesso che lui se ne va, cosa facciamo? Andiamo avanti? Cosa suoniamo? Come suoniamo? E innanzitutto il fatto di dedicarlo a lui come nome, e anche con la copertina dove c'è proprio lui, come una specie di ricercato quasi. Sì. E è una maniera per... chiaramente non rinnegare le nostre radici, come è nato il tutto. E anche... è una specie di bambino cattivo che avete messo. Sì, è proprio lui, ma anche dal vivo se lo vedi, cioè, è uguale. Fantastico, allora è un vero peccato non averlo in studio allora con noi. Magari con l'album, quando faremo l'album. Ah, perfetto, quindi vuol dire che ritorna se ci stai sentendo, Guerz da Tirana, sappilo. Benissimo, allora salutiamo... Guerz, sì. Poi salutiamo anche tutta Tirana, speriamo siano in molti ad ascoltare il buon rock che proponiamo durante le nostre serate a Blu Radio Veneto. Allora, visto che abbiamo strumentazione musicale, quindi siamo dotati Fiore. Di chitarra, organetti già citati prima, poi ancora il banjo, poi il glockenspiel, nonché un cimbalino, anche un ovetto. Maracas, anche gli ovetti, certamente. Allora, non ci che facciamo dire? Mancare nulla. Facciamoci allora, non facciamoci mancare nemmeno la prossima canzone live, che non conosciamo nemmeno noi, quindi mettiamo... sì, è un inedito. È un inedito, quindi diamo spazio a quale musica? Questa si chiama Eloise. Ok, ce l'ascoltiamo qui a Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, abbiamo ascoltato Eloise a cantarla. Sono le Brucalif qui a Blu Radio Veneto nella loro prima esperienza acustica in radio, così appunto ha appena dichiarato Andrea. Vediamo anche a quelli che sono gli altri componenti del gruppo, no? Ma prima facciamo ancora due parole su questa Eloise così affascinante, così decisa, nonostante il glockenspiel, questo strumento che è molto delicato, abbia cercato di dare un'impronta un po' zuccherina al tutto. In realtà c'era qualcosa di impetuoso che nasceva in questa canzone. Sì, sì, è una canzone molto diretta, proprio... questa qui, ecco, per esempio, l'ha scritta il nostro amico Guerz da Tirana. E mi ha detto che l'ha scritta proprio influenzato dalla musica dei Talking Heads. Così si è, con un riff che aveva in testa, e poi è venuta fuori questa. È molto bella anche dal vivo, perché c'è ogni strumento che entra progressivamente. È completamente diversa, però io non sapevo del riferimento a Devin Byrne e Talking Heads, però io l'avevo immaginata mentre l'ho sentita in questo momento molto barettiana, molto acida, immagina nel senso positivo del termine, quindi Flavio giustamente diceva aveva dietro nascosto di molta forza, ed era proprio così, il barettiano, l'acido nel senso positivo del termine, cioè dal punto di vista l'acido, quindi parlo degli fine anni 60, sì. I Pink Floyd in quel periodo là. Mi viene in mente questo. Dopo David Byrne e Talking Heads, può darsi, allora la ritmica, lui aveva parlato della ritmica, quindi Talking Heads, un po' jazzata, ma qua non c'era jazz, c'era quello strumento che dava un che di storiella, di cantastorie, delicata ma un delicato nascosto, un po' delicato tenebroso, secondo me. Sì. Noi l'abbiamo sentita così. Bellissimo, cioè la cosa divertente è che non sei il primo che ci dice, cioè, compara qualcosa dei Pink Floyd degli inizi. È una cosa che è bellissima, che però direttamente, almeno consapevolmente, non è così, non ci saremmo andati. Però effettivamente poi sono andato a riascoltarmi certi pezzi, è vero che se tu senti l'album solista di Syd Barrett, almeno il secondo, il primo no, ma il secondo, c'è qualcosa, sai, Syd Barrett aveva una costruzione musicale molto molto scheletrica, non sapeva suonare, ma era Syd Barrett, l'impulso dei Pink, poi l'ha dato Syd Barrett, dopo chiaramente le cose sono cambiate, non stava più in piedi, l'hanno per Maurizio, forza eliminato. Tu che sei tutto, era l'album che aveva gli insettini in copertina? Esatto, proprio quello, proprio quello. Era un album storico, era scheletrico ma molto avanti, nonostante che Syd Barrett, come si sa, era un non musicista, ma era un più musicista dei musicisti, secondo me. Quindi Shine on You Crazy Brooklyn. Esatto. Benissimo. Allora, Andrea, il portavoce dei Brooklyn, ad aiutarlo Andrea Ventimiglia, polistrumentista, lo ascolteremo anche più tardi con altre performance. E vogliamo ricordare anche quelli che sono i nomi dei protagonisti dei Brooklyn. Sì. Allora, Wertz, come dicevo prima, detto anche Francis Donovan McKenzie o anche Donovan Sinister, che è appunto quello che ha fatto un po' partire il progetto, lui suonava già da prima, e con lui per esempio è stata proprio una storia un po' folle se ci ripensiamo, perché ci siamo conosciuti in Francia, in Bretagna, con incroci di Erasmus vari, e infatti alcune canzoni dei Brooklyn già le aveva scritte in Francia, lui aveva iniziato lì, e dopo, avendo proprio lo stesso interesse comune con la musica Brit, il rock, questo tipo comunque di melodia, e abbiamo continuato a suonare insieme, però senza progetti precisi. E poi a un certo punto nel 2008, nell'estate, si è messo con alcuni suoi amici in taverna a registrare alcuni pezzi, e fatto sta che in quei giorni ci siamo visti, mi ha fatto sentire qualcosa che veniva fuori, ho detto wow, questa è fantastica, e ha detto mi piacerebbe provare a dare qualche contributo, e allora da lì praticamente sono stato adottato dai Brooklyn. In pianta stabile, per sì, me. E là all'epoca, quel giorno mi ricordo, in questa taverna c'erano altri due personaggi proprio da Paese delle Meraviglie. Uno è Basie, che in cui il nome d'arte è Madigan Martinko, e sì, che da russo quasi, effettivamente lui è molto alto, è proprio uno spilungone da fumetto, e lui è il bassista proprio. E poi c'erano Brett Bravo, detto anche Mancia, noi praticamente al di là della band siamo sempre per soprannomi, e lui è batteria invece, percussioni. E la cosa bellissima, che ogni tanto ci ripensiamo, è che lui praticamente aveva appena cominciato a prendere in mano le bacchette quando siamo andati lì in taverna. E quindi prima ancora che la passione per lo strumento o per la musica, era proprio la passione per dedicarsi a questo, entrare in un progetto, insomma. E quindi in questo caso ve lo siete plasmati a immagine e somiglianza di quella che sì, che ma in realtà lui stesso proprio a immagine e somiglianza della sua stessa passione musicale, perché per esempio lui e Guerzi sono conosciuti a un concerto degli Oasis, per dire, per cui già là c'è tutto un flusso. E quindi a me non sembrava vero, quando ho conosciuto questi personaggi con la stessa identica passione per quelle band, che in quegli anni lì non erano ancora così tanto mainstream come gli stessi Kasabian, erano ancora band che indie appunto considerate, quindi beh, Oasis un po' meno, però. No, chiaro, gli Oasis erano già i fratelli Gallagher, già all'epoca cominciavano a fare baruffa, quindi già all'epoca, quindi però sì, giustamente i Kasabian o qualche altro band in quel genere, diciamo che gli Oasis in quel momento erano poco indie e tanto d'indie, esatto. Tante monetine, no? Tante stelline. E poi c'era anche si è aggiunto il tastierista invece, con un synth, quindi dava questo tocco proprio anche un po' elettronico. Ecco, il synth, hai detto una cosa giusta, citare il synth. Allora ritorniamo ai Pink, in ogni caso, anche se c'è poco da fare, c'è sempre un collegamento, i Pink chiaramente è prima maniera, ma sì, ma alla fine sono, cioè, quando si parla dei padri comunque della musica o anche in qualsiasi contesto, cioè devi per forza ritornarci, anche se non vuoi, anche se magari sei ignorante, che non li hai ascoltati e li hai assorbiti per per via trasposta attraverso altre band, per forza devi sempre tornare un po' lì a galla e a quegli anni mitici 60-70 in cui tutto quanto veniva. E lui invece appunto si dedica più a tutte le tastiere e abita a Londra in questo momento. Benissimo, allora è per quello che sei, diciamo, unico rappresentante ufficiale dei Brucalis. Sì, siamo una band nomade, sì. Proprio per definizione, siamo dappertutto. Diciamo che costruite bene quando siete lontani, no? Tra di voi. Ma forse poi... sì, chi lo sa, forse anche questo è un po' la mossa. Comunque un'altra mossa importante, non vedersi spesso per creare di più. Allora, un altro pezzo del vostro T-Runner riguarda proprio il pezzo che dà il titolo al disco, lo ascoltiamo. Poi, eponimo, e poi torniamo a commentarlo insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ben trovati ancora in frequenza, questa è Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale chiamata Blu Radio Sera e abbiamo i Brucalis, oserei dire con la blu visto che ci starebbe anche bene, dai. O Blu Radio Sera o Brucalis, ecco qua, quindi Brucalis, le Brucalis per presentarci il loro ultimo lavoro, si intitola T-Runner, un EP formato da 5 tracce davvero molto ascoltabile. Allora T-Runner l'abbiamo ascoltato con un inizio di un rapace, se non vado errato, un rapace che si addentrava in qualche ampio spazio per cercare il bianconiglio. Per cercare il bianconiglio, giusto, uno degli altri personaggi Alice nel Paese delle Meraviglie. Ricordiamo ben la presenza di due conigli, Maurizio lo saprà bene che a Alice nel Paese delle Meraviglie nel cuore c'era il bianconiglio e invece c'era il lo stregatto, sì, sì. Poi speriamo un attimino. Il cappellaio matto, e poi c'era l'altro coniglio che aveva sempre Ricordo il suo nome, l'amico del cappellaio matto. Sì, l'amico del cappellaio matto, comunque non importa. Passiamo oltre. Lui era il coniglio bisestile, ecco, me lo ricordo. Bravissimo. Ecco. Flavio sa tutte le fiabe, veramente un cultore accanito. Allora, T-Runner, abbiamo detto prima, deriva appunto da questa pronuncia americanizzata di T-Runner, ecco, però naturalmente sembra un qualcuno che rifugge o fugge da qualcosa di importante. Ma sinceramente le liriche di T-Runner sono venute dopo la musica, proprio seguono tutto il filone, proprio più un brano direi strumentale, musicale, proprio nato da dei riff di chitarra che stavo facendo un giorno così, con la chitarra classica addirittura prima. Però dice back in the yard, per cui è più un ritorno. È stato anche il nostro primo singolo dell'EP con cui abbiamo girato anche un video, fra l'altro nella campagna di attorno a Marcon. Anzi, ringraziamo l'azienda agricola Rosmarino che ci ha ospitato, loro sono fantastici. Li ha fatti scappare per i campi. Esatto, sì, con gli asini, le galline, tutta la combriccola. È stato veramente bello. Loro conoscevano il vostro disco? No, noi siamo arrivati lì con una troupe invece che è arrivata da Firenze. Loro anche loro sono bravissimi, sono in Photo Synthesis Lab Project, e abbiamo provato così a tirare fuori un video un po' bucolico, un po' così che rispecchiasse un po' anche quei pet sound di cui prima parlavamo. Sì, esattamente. Non avete dimenticato, giustamente, tu che hai avuto l'idea delle chitarre, l'icona per eccellenza della musica rock, che è Pet Sound, i Beach Boys. Vabbè, i cori, gli incastri, le vicinanze ai suoni vocali dei pitch sono notevoli, ma in senso positivo. Sì. È un'icona che tutti quanti, Beatles in testa, si sono riferiti a questo album. Sì, è una cosa che ha proprio rivoluzionato il modo anche di concepire la canzone. Che Brian Wilson era un genio, è sempre stato un genio, un genio che creava da solo, gli altri quando arrivavano era già tutto pronto, ma da solo gli creava. Sì, infatti quell'album lì l'hanno iniziato a registrare, cioè lui ha registrato tutte le basi mentre loro erano in tournée in Asia. È vero, loro sono arrivati e lui è emerso dalla sua cantina. Ragazzi, sentite qua cosa ha già prodotto, fatto tutto con voci, tutto con proprio così, e proprio centrato in pieno, perché quell'album l'ho ascoltato alla nausea proprio nel periodo in cui è nata T-Runner, per cui evidentemente sì, è proprio un flusso è un flusso continuo. L'immagine della musica dei Pink e dei Beach ha questa caratteristica, un flusso che non si ferma mai. Che si evolve, un bel impasto, si evolve in continuazione grazie al genio di Brian Wilson, che lui ha creato, ha ricreato, ha tagliuzzato quello che poteva tagliuzzare, in senso strepitoso. Sì. Fantastico anche quando si arrivano ad ascoltare le note di Wendy, dei Beach Boys o di Barbara Rain di anche mille quello altre. Che sembra semplice, ma invece è difficilissimo creare. Difficilissimo. È un calore creato proprio. Sì, è vero, sono dei brani molto diretti poi da ascoltare alla radio, anche così estivi, magari li vengono spesso abbinati all'estate, ma in realtà c'è dietro proprio un lavoro geniale. Sai che sono tornati in classifica col disco nuovo adesso, i Beach Boys. Ho sentito, però non ho ancora. Nei primi 20 a Billboard, e Brian Wilson ha ripreso sì, qualcosina dei, dei vecchi amori, ha fatto questo nuovo però disco. Però sono un po' diffidente rispetto a queste reunion che stanno avvenendo una dietro poi l'altra. C'è un coro di badanti là. Sì, esatto. Ecco, non sono più in tenera età, si fanno accompagnare, esatto. Ecco, in questo caso. No, a parte gli scherzi, sono ancora molto bravi anche sul palco. E, allora, noi, visto che ci sono ancora strumenti musicali all'uopo, allora andiamo ad ascoltarci un altro pezzo, sempre un altro inedito o un qualcosa che riguarda questo il passato? Questa qui l'abbiamo pubblicato come brano gratis, in realtà la maggior parte dei nostri brani sono scaricabili gratuitamente da internet, e il primo, infatti il nostro primo lavoro EP che è stato pubblicato proprio negli store è T-Runner. Però questo qui invece è proprio registrato in fretta e furia, si chiama Love is a Caterpillar. Mi ricordo proprio qualche giorno subito prima di Natale, e quindi anche un'atmosfera abbastanza così leggera, e era stato proprio il mio regalo così di Natale a tutti quanti. Allora ce l'ascoltiamo qui a Blu Radio Veneto. As I step on the fence, I say, as I roll up Rosalind, as I catch on your spin, I get mental to dream, I don't want to waste a got a coma, leave on a marmalade, turn it a blue plane, and I'm knock on your door, sliding back on a flow like a tide on an operate, sweep on a wheel like a grab on a bin, mine doesn't care if you sing in Chinese, swim in the milk if you can get a grip. This love is a steam coming up from a sheep. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Canzoni brevi ma con una forza dentro. Infatti, eravamo rimasti un po' estasiati da queste musiche, quasi ci dimentichiamo della nostra conduzione nella trasmissione e ci lasciamo avvolgere da queste atmosfere. In questo caso sono le Brucalifs qui a Blu Radio Veneto, sono venuti per presentarci il loro T-Runner. In questo caso abbiamo ascoltato un brano che invece faceva parte del vostro passato artistico. Sì, era proprio un episodio così a sé stante, questa Love is a Caterpillar, cioè, dicevo, proprio registrata così, proprio una specie di una specie di spirito del Natale che mi è venuto fuori, e che poi in realtà va bene per tutte le epoche. Sì, ed è vero che l'amore è travolgente, tipo Caterpillar? Sì, anche lì è un gioco di parole in realtà. L'amore è un bruco, oppure l'amore è proprio un caterpillar. Sì, è qualcosa che proprio ti rade al suolo, a tappeto. Infatti lo dice anche nella canzone, proprio ti fa strisciare sul pavimento, lo dice a un certo punto. Certo, quindi diciamo che caterpillar è la traduzione classica per dire bruco in inglese. Sì, esatto. Si usa di solito garden caterpillar. Sì, no? Pensate che per tornare sempre a bomba su Alice nel Paese delle Meraviglie, noi siamo l'unico paese che ha creato questo bellissimo nome brucaliffo, invece Lewis Carroll usava il banale caterpillar, proprio per cui onore ai traduttori italiani. Ma poi di questo pezzo mi è venuto in mente una cosa, mentre lo sentivo, molto bello secondo me, molto delicato, un incastro perfetto tra i Kings e gli Hills. Wow. Gli Hills sì, soprattutto gli i Kings all'inizio sì, avevi qualcosa di Ray Davis, poi gli Hills e poi soprattutto voi. Questi riferimenti, questi punti lontani sono sviluppati. È una bella cosa secondo me, è una cosa molto positiva. Il pezzo era molto bello, molto godibile, però un godibile un po' amaro, secondo me. Non prettamente. Sì, avevi fatto periodo natalizio, avevi detto. E però aveva qualcosa di amaro, di un romantico decadente, a mio parere. Non lo so, l'ho sentito così. Assolutamente sì, condivido con te, anche perché l'atmosfera... Non vogliamo mai essere troppo decisi, troppo felici, vogliamo sempre lasciare un po' la suspense. Ecco. Nell'atmosfera Hills ci mancava solamente il fumo dell'artista. E lui faceva un po' di tutto, ecco, quindi. Sì, sì. Assolutamente tutto, quindi. Benissimo, ma abbiamo ricordato anche atmosfere e gruppi, diciamo, che vi hanno formati nel corso di questa prima parte di conversazione. Ma vogliamo capire da te, Andrea, in arte, Babbo C'hai Mani, ecco qua. Quali sono gli artisti che ti hanno formato e che stai ascoltando tuttora? Wow, è la domanda che sogni proprio che ti facciano. Dammi solo 5 nomi di artisti abbinati a 5 album, se ci riesci. Ok, allora proverò. Ma partiamo dall'Italia, che è giusto rendere onore ai Quinto Rigo. Loro sono una band che proprio mi hanno stregato quando sono saliti sul palco dell'Ariston e li ho ascoltati proprio tantissimo. Sono andato anche a vederli a un sacco di live quando c'era John De Leo proprio all'inizio. Adesso non li ho più... Era un istrione lui. Sì, lui era proprio... Era lui. La band era lui. Al di là di tutto, ha una voce incredibile. Sempre parlando di voci importanti. Era molto molto bravo. E poi appunto quello appunto per l'adolescenza, proprio per inquadrare proprio la loro genialità e proprio anche mai l'essere mai scontati, proprio ricercare sempre. Poi un altro un altro che stesso periodo, i Touring Breaks. Proprio è il primo CD che ho comprato, mi ricordo, proprio avevo messo da parte la paghetta per andarmi a prendere, si chiamava The Optimist, LP, che però se lo ascolti è tutt'altro che ottimista, è abbastanza melanconico, sempre per tornare, e mi aveva lì conquistato proprio il video di Underdog, dove c'era questo omino che non riusciva a stare in piedi e c'era questo, molto alla Radiohead anche come mood, e mi aveva conquistato con queste chitarre acustiche, anche molto semplici. E poi difficile non parlare, anche sempre continuando con l'acustico, con i Coldplay, anche se poi hanno preso strade ben diverse, però anche loro sono degli animali che sono cresciuti in maniera incredibile, da indipendenti proprio a pachidermi adesso, anche troppo infatti. E poi chiaro gli Oasis, io ho iniziato a suonare la chitarra proprio perché volevo provare a fare un brano degli Oasis, che sapevo che era facile. E poi è banale dirlo, ma non è mai banale, perché i Beatles sono poi il tappeto su cui poggiano tutti questi che ho appena nominato. Adesso ne hai citate 5. Ecco. Tra le altre cose, mi viene in mente, a proposito, tu adesso hai detto Beatles, prima o poi l'avresti detto, secondo me, secondo la mia concezione della tua musica. Perché in Earth Attack, che è un video che sta girando a proporre la musica di Le Calif, c'è un viaggio un po' particolare, no? Che voi affrontate, non siete mai visti in prima persona, no? Voi come Blue Calif. C'è solo la batteria. Sì, c'è la batteria, c'è qualche pedaliera qua e là, ma in realtà c'è un viaggio verso un itinerario particolare che vede protagonisti anche perlomeno per un decimo millesimo di secondo anche i Beatles. Li avete proprio buttati là. È proprio quella canzone nel momento in cui la stavamo registrando, proprio direi anche dall'inizio, in cui mi vengono così. E mi faceva pensare a degli aerei che volavano. Infatti in tutto il video ci sono degli aerei, soprattutto d'epoca, che volano, che viaggiano. Mi faceva pensare a quell'idea lì. E poi metterci dentro un piccolo omaggio a loro era quello che secondo me impreziosiva anche il tutto. Interroghiamo anche lui però stavolta, il nostro pastierista. Sì, qualcosina devi dire anche te. 5 dischi, dai, vai. 5 dischi, allora. Primo disco che citerei, più importante, quello che proprio non tramonterà mai, secondo me, è Kid Day dei Radiohead. Sempre sperimentale, vai su sperimentale. Sì. Dopo il famoso album della Computer, certo, che si trova anche a un prezzo veramente interessante, certo, in giro nei negozi. Nonostante la fragranza ancora presente nel disco, si trova già delle cifre molto ridotte d'acquisto. Sì. Rasenta tipo i 5 euro. Sì. Sì, anche diverse versioni. Mm, sì. Poi, anch'io direi Beatles, come Andrea. Parlerei dei Pink Floyd, che poi anche loro fanno da tappeto non solo i gruppi di cui ha parlato Andrea, ma anche dei Radiohead soprattutto, che sono stati spesso ricordati nelle prime fasi come i nuovi Pink Floyd. Poi ascolto molto la scena italiana più recente, quindi ti direi Verdena piuttosto che gruppi come Teatro degli Orrori. Stavo per risponderti Wow. Wow, esatto, no, perché... sì, giusto. Grande album. Quel doppio album fatto con esperienze assolutamente originali, artistiche, molto bello. Il loro album bianco praticamente, sì, di Verdena, sì, dicono. Sì. Fantastico. Bene, allora ancora fiato alle trombe, anzi diamo spazio agli strumenti musicali, ancora un brano live per presentarvi la musica di Le Bruca Leaf, quindi adesso cosa tocca? Questa qui si chiama Water Flows, è il brano da cui si è sviluppato invece il nostro precedente EP che si chiama Spring in September ed è scaricabile anche questo gratuitamente, e eccola qui. Was my priority sight to see and get to feel my knees. Stumble down and I touch the ground. I cross my faith in a lost and found. Gotta see this cemetery, you know I can't remember what is lost. Dreaming on September, just a lot until November. What I know. This water flows. Time to time, sure I won't resign. Restless optimism will soon pick up money scrum by crumb. Keep beating on the drums. The words are cute and right, are glowing in the night. Gotta see this summer chill, you know I can't remember what is lost. Dreaming on September, chance a lot until November. What I know is what I flows, it flows. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Waterflows, si intitolava così il pezzo delle Brucaliffs. Sono qui a Blu Radio Veneto per presentarci la loro musica live e anche il loro EP, si intitola T-Runner, e Andrea dei Brucaliffs ci ha ricordato con esattezza, ma vogliamo ricordarlo, dove si può trovare questo disco per chi lo volesse. T-Runner, sì. T-Runner lo trovate su iTunes, per esempio, su Amazon. Potete ordinare anche un'edizione cartonata che è molto carina, con il CD che sembra un vinile, sul sito di Garage Records, garagerecords.com, che è quello della nostra etichetta di Conegliano, che ci ha prodotto e ci distribuisce anche, e poi su tutti gli store digitali. E questo pezzo che avete appena eseguito faceva parte del disco precedente. Sì. E secondo me, io il disco precedente ho sentito poche cose. Era un disco più acustico, più introspettivo, esattamente, sì. Meno potente di questo qua, sì. Meno psichedelico, sì. Più introspettivo. Sì, sì, vero. Come mai questa variazione? Hai detto bene, è proprio l'altra faccia, diciamo, della medaglia, però ci fa sempre, cioè, siamo sempre noi. In particolare quell'EP è nato proprio avendo a disposizione questa canzone qui, che appunto è molto, molto, che trascinava gli altri, esatto. E poi le altre sono altri due pezzi bellissimi invece, scritti da Wertz, sempre, e molto autunnali. Era agosto e lui aveva già ci siamo ritrovati a dire bisogna buttarlo fuori adesso, e ne abbiamo approfittato tramite l'occasione di una mostra di dipinti, che è proprio degli alberi autunnali, fatta da una nostra amica pittrice che è bravissima, si chiama Gaia Leonello, e abbiamo presentato questa esibizione in contemporanea con l'uscita dell'EP, e quindi siamo proprio immersi nel mood autunnale. Però appunto, dal punto di vista, diciamo, strumentale, musicale, diciamo che torni sempre nel luogo di dove nascono le canzoni con l'acustico, e quindi i Beatles potrebbero essere da alcuni associati a quel diciamo suono lì acustico, ma poi in realtà, se vai a vedere, hanno fatto cose completamente diverse. Quindi sì, era anche per dire che a noi piacciono, certo, proprio quei gruppi che sanno spaziare da un ambiente all'altro. E le canzoni vecchie, versione live di adesso, come le costruite, come le fate, come le cambiate rispetto all'LP precedente, visto che, certo, no, che l'ispiratore è stato Tirano adesso. Eh sì, adesso live, adesso suoneremo per esempio anche venerdì a Ponte della Priula al Glogluk Festival, e avrà tutto un altro impatto più elettronico, e la batteria è una cosa fondamentale nel nostro live. Con il basso creano una specie di muro quasi molto potente, e quindi anche canzoni come Whistle to Sunshine, che su disco è una canzone molto molto da ambiente con l'armonica, e quella lì invece la suoniamo con una batteria bella palpitante, quindi stravolgendola completamente, però mantenendo quella melodia, quel ritmo così. Anche perché il basso che si sente, soprattutto nella versione da disco, è molto, sì, energizzante già, sì, di sì, proprio, sì, una presenza, diciamo, fondamentale a sì, a sì, sì, assolutamente. Il modo in cui suona Basie, il nostro bassista, proprio crea quella specie di muro. A volte in sala prove gli urliamo anche dietro, perché usa degli effetti proprio che ti stordiscono, però da live, da proprio quella, diciamo, verta che... Certo. Che serve. Ma senti, adesso abbiamo parlato del vostro recente passato. Cosa mi raccontate di Orange Boom? Orange Boom, quello lì in realtà è un po' il fratello maggiore di è proprio a metà fra il nostro primissimo lavoro registrato in taverna a Gradisca, e invece Spring in September, che è quello già che inizia ad avere più un mini concept quasi. E è un singolo dove abbiamo preso una di quei brani, Orange Boom appunto, che abbiamo registrato nella taverna, però diciamo rimasterizzandolo e riregistrando la batteria sopra, aggiungendoci anche dei cori, quindi anche pompando di più i bassi, proprio grazie all'aiuto di Ruggero Poldi di Garage Studio, che ci ha aiutato in questo lavoro, e quindi proprio per pubblicarlo anche su Jamendo, che è un... è una bella vetrina secondo me per chi fa musica così indipendente, anche emergente, perché ti permette di distribuirti in tutto il mondo, di scaricarti e ricevi anche recensioni, commenti da tutto il mondo. Ricordiamo il sito che è jamendo.com, scritto sì, con la I lunga, J, J come sì, Juventus. J come Jamendo, Juventus, sì, per chi è tifoso, per chi non ama la Juventus, J come Jolly. Ecco qua. Come Jethro Tull, ecco, come Jethro Tull. Ecco qua. E, tra altre cose, su YouTube è disponibile anche una vostra versione di Orange Boom al Etnoblog, sì, che è stato il nostro concerto, penso, più figo in assoluto. Proprio. Ecco qua. E quindi c'è qualcuno che voleva ricordarlo e quindi ha inserito questo filmato. Con, fantastico. Non suoni perfetti, ma no. Da molto una sensazione. Era un delirio quella sera, però sì, dà proprio l'effetto che era una specie di contest dove noi abbiamo suonato verso fine serata, mm-hmm, e erano tutti che ci aspettavano e è stata veramente una bella risposta, però sentivamo le transenne che si muovevano. Bene. Quindi deve essere assolutamente entusiasmante, da una carica ancora prima di esibirsi in questo caso, quindi da vedere assolutamente. All'interno di YouTube è presente anche questo questo filmatino. Spazio alla musica, presentando un altro pezzo da T-Runner de Le Brucalif, in questo caso Stop the Monos, eccolo qua. Blu Radio Sera. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Avevamo appena finito di parlare di basso e abbiamo proprio sentito all'interno di questo Stop the Monos proprio il basso presentissimo, e per chi come noi speakers di Blu Radio Veneto usa ascoltare la musica direttamente con le cuffie, questo rimbombo nella propria testa si sente, e come poi tenendo anche a quel volume giusto in cui questa musica va ascoltata. E a proposito di musica va ascoltata, parliamo un attimino di Stop the Monos, e poi ritagliamo un altro quadrettino a riguardo. Allora, Stop the Monos, fermarsi con cosa? Da dove? Questo beh, sicuramente è riferito al tempo, alle ritmiche che ha questo brano, è proprio uno stop and go. Ricrea proprio il tipo di anche improvvisazione che si può creare in una sala prove, no? In realtà questo è nato proprio come un brano completamente diverso, si... sembrava quasi un brano dei... Una jam era praticamente, una sì, piccola jam. Sì, questa sembra una jam per come è venuta, ma all'inizio sembrava quasi un brano dei... Come si chiamano? I Corner Shop. Ah, sì, sì. Di okay. loro. E era molto... quasi, cioè, continuo nella sua... Molto placido nella sua regolarità. Invece, portandolo in sala prove, è venuta proprio l'idea dal batterista, da Mancia, di cambiare, fare dei cambi di tempo. Ci abbiamo provato, prima velocizzandolo, poi rallentandolo un sacco, e ci piacevano entrambi i risultati, quindi abbiamo provato a metterli insieme e quindi è venuto fuori questo. E difatti il batterista qua fa un lavoro incredibile, perché stop con continui, non è mai fermo. Il batterista non è mai fermo, ma in questo caso particolarmente è proprio agitato, nel senso positivo. Sì. Era come ascoltare un vecchio 33 giri in versione 45. Esatto, esatto, è verissimo. Benissimo, solo che finiva non fermo e deciso come è successo adesso, ma un po' più... così. Benissimo, c'è anche chi, scrivendo le critiche, che comunque sono sempre state molto positive nelle recensioni, in questo caso chiamiamole più carino, c'è chi vi ha paragonati anche agli Strokes piuttosto che ai Coral, e tra altre cose anche i Coral, tu prima Andrea facevi riferimento a Noel Gallagher, che ci ha anche suonato insieme. Sì. E anche in un album, sì. Sì. E quindi, ma vi sentite, perché i Coral sono inglesi, i Strokes sono con americani, sonorità americane, sì, New York, sì, quindi più verso... Beh, è inutile girarci attorno, cioè tutto nasce dall'Inghilterra, cioè poi in America hanno sviluppato il loro bel sound, però cioè, America, c'è poco da fare. Sì, in America però si... virano spesso e volentieri sul blues. Sì, anche loro hanno un po' di storia alle spalle, e poi in realtà è bellissimo anche tutto quello che è venuto proprio dalla musica anche nera, americana, eccetera. Però se mi dici chi butto giù dalla torre dalla per torre. Primo, io vado in Inghilterra. Ah, ok. Sì. Union Jack al 100%. Sì, direi proprio di sì. Okay. Devo ancora starci in America, devo ancora andarci, perché poi chissà. Puoi anche cambiare, dici, non si sa mai. Sì. Bene, ricordiamo anche un vostro sito internet per prendere maggiori informazioni sull'attività allora, direi che il più facile da cui proprio potete seguirci 24 ore su 24 è facebook.com/lesbrucalips, L-E-S Brucalips. Mm-hmm. E poi ci sono i classici myspace/lesbrucalips. Twitter anche da poco ci siamo anche noi, poi c'è Believe Band anche, che è un sito dove potete scaricare anche una traccia acustica, quello proprio della nostra etichetta, garagerecords.com. Bene, quindi ci sono parecchi appigli per... Sì, oppure la cosa più semplice, sì. Google Les Brucalips, oppure solo Brucalips, siamo gli unici al mondo. Proprio. Ecco, benissimo, quindi un nome assolutamente originale, sì. Che come dicevi tu, per noi italiani dice ancora qualcosa, sì. Per effetto di quell'attività di traduzione molto libera e simpatica, invece negli altri non c'è questa no. attività ludica nel ma fare. Devo dire che anche negli stessi italiani ci guardano ogni volta con gli occhi fuori dalle orbite, cioè, io pensavo che il brucalippo fosse una cosa conosciuta da tutti, invece non è così. In realtà no, beh, c'è sempre degli ignoranti in giro. Sì, purtroppo sì, in crescita. Ecco, poi, sì, in crescita, ma soprattutto ignoranza nel senso di non sapere certe cose, ecco, senza offendere nessuno. allora, direi spazio ancora alla vostra musica. Prima erroneamente abbiamo messo due live, però... Va bene, ci stavano bene. Vogliamo proseguire con un live? È vero, eravamo talmente presi che siamo andati avanti. È vero, dopo sai, ci siamo presi così bene con la scaletta. Noi siamo pronti. Adesso cosa... Adesso vi proponiamo una versione del tutto balcanica, proprio per rimanere in tema di Tirana e Albania, del nostro prossimo singolo, che uscirà fra poco anche con un videoclip, tutto da vedere. E questa si chiama Sergeant Liridon. Eccolo qua, Sergeant Liridon a Blu Radio Veneto con Le Brucalif. Mm-hmm. mystical, just like a psychedelic clown. Such a liridon, he doesn't smile when he ought to. Looking cynical, as he entered the saloon. Radio Sera. Sempre con Blu Radio Veneto, Blu Radio Sera, l'appuntamento live del martedì, ancora con Flavio Bilato, Maurizio Calzavara. Questa sera con le Brucaliffs sono venuti per presentarsi il loro nuovo T-Runner, un EP formato da 5 tracce davvero molto molto belle, e poi in abbinata questa musica live. In particolare ci siamo ascoltati Sergeant Liridon, che è anche la canzone che conclude l'EP T-Runner. Questo Sergente Liridon, in questo caso mi rivolgo ad Andrea, mm-hmm. Sergeant Liridon che scala sì. Sì, va su una scala verso il sole e si sente quasi come un pipistrello psichedelico, sì. In questo caso è veramente un quadretto del tutto particolare. Sì, proprio la scala verso il sole direi che è l'immagine un po' centrale della canzone, che anche questa è nata partendo un po' dalla metrica di una melodia nata in sala prove, quindi anche questa è nata dalla musica. E Liridon ci stava perfettamente in metrica, e anche Sergeant, e quindi come non prendere un nome così, visto che Sergeant Pepper, Sergeant Pepper, sì. Anche era un sergente anche quello. E quindi richiamo un po' la realtà di tanti ragazzi che sono chiamati soprattutto i minori stranieri non accompagnati, che ce ne sono tantissimi in Italia, anche qui a Padova, nella zona Mestre, che sono per esempio albanesi o dal Kosovo, ce ne sono tantissimi, e Liridon infatti è proprio un nome kosovaro, e è come se scalassero una scala verso il sole venendo qui, e quindi hanno da una parte questa questa aria così scanzonata, però dall'altra anche un bel arrampicarsi, difficile. Quindi è venuto fuori un po' tutto questo mood insieme, e anche il pipistrello psichedelico è un'immagine che richiama un po' appunto i colori, e dall'altra anche le tenebre, insomma. È un po', forse è proprio a livello di testo è quello più così sognante, da favola, però anche in realtà ispirato alla realtà. E nell'EP è un set acustico, totalmente sì. Acustico, e noi abbiamo scelto, mi permetto di dirtelo, sì, per un mese come disco, come pezzo lancio, grazie anche al nostro direttore artistico Alberto Pisco, che ha curato anche stasera vostra presenza qui stasera. Quindi lo salutiamo. E noi abbiamo deciso di portare avanti, lanciare il vostro disco con questa versione acustica, questa bella finale dell'EP, e a noi è piaciuto particolarmente. E io ho visto, Flavio non si è accorto, i cinque si sono dati due a Andrea quando avevano finito il pezzo, sì, molto soddisfatti. Difatti la versione fatta qui era ottima, secondo me. Ecco, ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che oltre alle Brookalifts in versione digitale scaricabile secondo le modalità che vi suggeriscono, sì, le varie negozi, nei vari negozi virtuali, sì, diciamo digitali, ecco, c'è la possibilità anche di ascoltare la nostra registrazione fatta proprio questa sera, abbinata appunto all'intervista alle Brookalifts, così si sentono anche le due versioni, diciamo, riguardanti, sì, magari lo stesso brano, e ne abbiamo registrati veramente di carini in questa serata. E poi ricordiamo ancora che ci sono le foto all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it, nella pagina riservata alle Brookalifts c'è anche lo spazio adesso per ascoltare la diretta, e più avanti per riascoltare quello che è andato in questa serata, gaff comprese. Fantastico. E poi sì, perché non viene tagliato nulla o quasi. E poi anche le due foto che sono scattate in maniera davvero amatoriale da noi. Bene, allora una cosa, abbiamo parlato del vostro dal vivo, quando siete sul palco, questa attesa super. Voi siete stati anche supporter di altri artisti, tra i quali ricordiamo le luci della centrale, sì, elettrica. Però sono due appuntamenti assolutamente diversi, cioè voi vi presentate con la vostra musica e cantate in inglese. Sì. Poi arrivano loro con una musica non vicinissima alla vostra atmosfera e cantano in italiano e recitano in italiano. Sì, arriva proprio lui, poi è lui, sì, praticamente da solo, di solito con una violoncellista in quella situazione. E sì, è andata così. Infatti è stata una serata un po' strana perché siamo arrivati prima noi. Era un locale anni 60, bellissimo fra l'altro, in Friuli, dove c'erano tutte queste chitarre vecchie, c'erano le Cadillac dentro, statuette di Elvis o cose di questo tipo. Siamo messi a suonare proprio anche con un concerto bello elettrico, bello palpitante, e poi finiamo e arriva lui, e quindi ha completamente proprio stravolto l'atmosfera. Addirittura il pubblico si sono seduti come se fossero attorno ad un fuoco praticamente. Voi la conoscevate la loro musica? Sì, sì, è stato col disco di debutto, ha vinto anche il premio Tenco. Boom, ha fatto, sì, il disco di debutto. Sì. Sì, sì, sì, sì. Però il secondo disco è un po' diverso, ha perso leggermente l'idea del primo album, secondo me. Si è un po' non ha avuto gli stessi lampi di genio, di novità rispetto al primo album. Un po' adagiato. Lavarsi i denti con le antenne del televisore. Ecco, esattamente così. Allora, direi di proseguire con l'ascolto ancora di T-Runner, perché mancano ancora un paio di pezzi. Questa volta ci ascoltiamo Smash or Fix e poi torniamo qui a commentarla insieme all'interno della programmazione di Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccola qua, l'ennesima sferzata, Smash or Fix. Loro sono le Brucalypse a Blu Radio Veneto nella loro versione da disco, da T-Runner per l'appunto. Musica veramente a impatto a mille, voglio dire, in questo bel pezzo. Allora, innanzitutto, com'è nato il pezzo? Il pezzo anche questo è nato proprio in sala prove. E, è nato in una maniera un po' strana, proprio mi ricordo ancora il momento, era la scorsa estate, faceva caldissimo, stavamo proprio sciogliendoci, e è arrivato Alberto, che è il nostro nuovo chitarrista, che ci aiuta nel live e anche ha registrato questo EP. E arriva Alberto con questo riff, che è quello che sentiamo, però facendolo in maniera molto più lenta, con gli stessi accordi anche. E lì sul momento ci siamo un po' guardati, eravamo, sì, stai, proprio magari ne riparliamo, non è male, vedendo così, eh? Poi a un certo punto è come scattata una specie di molla, aspetta un attimo, e abbiamo iniziato a andare proprio con la batteria, proprio trascinante diventa il pezzo, sì, quasi veloce, alla Queens of the Stone Age, quasi con quell'energia, facendo, sì, gli stessi accordi, e siamo andati avanti proprio tipo mezz'ora facendo sempre gli stessi accordi. Capito. E ci piaceva proprio quel mood, e poi da lì il pezzo è nato dopo. E questo chitarra hendrixiana finale, chi l'ha fatta? L'hai fatta te? No, l'ha fatta sempre Alberto. E come mai l'idea di questo in arte John Robertson? Di questa idea di Hendrix, del padre putativo di tutti, per dire. Beh, perché a lui gli piace tantissimo, addirittura l'adesivo di Jimi Hendrix sulla chitarra. Efficace. E allora, di solito le chitarre non vanno con adesivi, ma quando si tratta di raffigurare appunto l'icona di un grande artista, allora la si può usare qualsiasi spazio. E, allora, no, mi era piaciuta una descrizione che aveva fatto forse un giornalista, forse il vostro promotore, riguardo a quello che è, diciamo, il contest per ascoltare la vostra musica. Quindi assolutamente su una macchina decapotabile, diciamo, sì, a una velocità lui diceva velocità abbastanza sostenuta, però con questa decapotabile e con la strada sempre dritta, con natura, sì, destra, natura sinistra e il cielo sopra. Sì. Quindi molto americana, non inglese. Quindi, stavolta. Però in realtà mi immagino una strada non tanto ampia, bella, quelle belle strette, che anche con belle curve che vanno avanti e indietro. Quindi inglese assolutamente. Sì, più da Scozia. Più da Scozia, sì. Paesetti, paese del Sarajevo. Sì, sì, sì. Quindi, sì. Quando anche decidete... Italia, anche Italia anche stessa, Italia. Toscana. Certo, okay. Quando decidete di fare questo esperimento, mi raccomando, avvisate i vigili che magari... In realtà lo facciamo ogni volta prima dei concerti, per cui sono sempre in allerta nelle zone in cui suoniamo. Solo che a Mestre aprire la capota è quasi come fumare roba sentono. Impropria, ecco, sì, in questo caso. E dopo siamo ben pronti per i concerti. Benissimo. So che ci volete riservare una cover davvero particolare. Sì, questa è proprio una sorpresa del momento che proviamo adesso a fare. Prima perché... non è stato citato questo artista o questa no, band, ma volutamente per farci la sorpresa? O era faceva parte del numero 6 come disco? Boh, forse no, direi che decisamente se io dovessi scegliere i 5, loro sono abbastanza lontani. Però hanno fatto delle cose stupende, cioè anche loro sono dei pilastri del rock. Vogliamo svelare di chi stiamo parlando? Loro sono i... vengono da Shadow, sono i Nirvana. In Nirvana, e allora adesso con... Vorremmo, ecco, sì, provare a omaggiarli senza pretendere minimamente di essere fedeli. Ok, Nirvana in Bloom. Yes. Yeah, rebirth of the glare. sunny, likes to shoot his gun, sunny, like to sing alone, but he don't know what he means, don't know what he means, and I sing, he's the one who likes all the pretty songs, sunny, likes to shoot his gun, and he likes to sing alone, but he don't know what he means. Don't know what it means, and I sing. We can have some more. Nature is a war. Bruises on. Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccolo qua, abbiamo ascoltato nella versione live di The Brookalifts questa canzone dei Nirvana. L'album era Nevermind di qualche tempo fa, penso il 92, con la canzone In Bloom. Tra altre cose mi tornava alla mente sempre un video, perché sono un appassionato di video su YouTube, che riguardava appunto i Nirvana, dove c'era un simpaticissimo Kurt Cobain che era vestito in maniera direi elegante, rarissimo vederlo in quelle situazioni, però voleva prendere in giro quella trasmissione che andava negli anni 60-70 del Ed Sullivan Show. Ecco qua, e c'era proprio una performance del tutto particolare di come doveva presentarsi all'inizio, per poi invece dare scandalo subito con tanto di chitarre sopra le batterie e altre cose, quindi una maniera un po' particolare per presentare questa In Bloom, davvero molto molto forte nella sua versione da Nevermind. E quindi tu sei stato anche coraggioso a riproporre questo pezzo, e comunque in una maniera davvero delicata. Grazie. Forse il pezzo che mi è sempre piaciuto di più di loro, dei Nirvana, la grandezza dei Nirvana è proprio, secondo me, la semplicità, l'essere diretti e anche molto naturali proprio in tutto quello che hanno fatto. E quindi io ho provato a, così, con la stessa naturalezza, a strimpellare con la chitarra senza pretendere niente, e mi piaceva un po'. Ricordiamo che i Nirvana hanno fatto un classico, l'MT Unplugged, famosissimo. Sì, assolutamente. Uno dei dischi più venduti nella storia degli Unplugged. È stato superato leggermente da Eric Clapton, però subito dopo vengono Nirvana come vendite, praticamente. È un disco meraviglioso. Kurt Cobain che non si aspetta, almeno si aspetta, perché lui era acustico, sì, però l'energia la metteva lo stesso. Sì, è proprio il discorso che facevamo prima, no? di acustico e di elettrico. Ma acustico cattivo, acustico proprio con grinta, con pathos, è quello il discorso. Sì, però appunto arrivava tutto lo stesso, anche lì. Arrivava tutto lo stesso, hai detto una cosa giusta. Anche perfetto. Perché per far ascoltare i Nirvana a un pubblico, diciamo, medio, non proprio del settore un po' focoso, diciamo che andava assolutamente bene. Certo. La parte unplugged della cosa. Allora, sono le 22:31 minuti, ancora qualche minuto per andare avanti, ce l'abbiamo, quindi ci aspetta un bel finale da parte di Le Blue Caliphs. Quindi che dire, noi ringraziamo Babbo Ciaimani, ecco, sì. Così si chiama il nome d'arte di Andrea dei Blue Caliphs, che è venuto qui a presentare per conto delle Blue Caliphs questo T-Runner. Ringraziamo anche Andrea Ventimiglia, polistrumentista, che è venuto a suonare l'organetto, un organetto della Bontempi davvero grazioso, come si ricordava all'inizio. Poi ancora il banjo, il cimbalo, il glockenspiel. E quindi grazie Andrea per essere stato con noi. E allora, ricordando appunto i vari siti dove siete presenti, oppure semplicemente, come dite, tanto siete gli unici al mondo, sì. Cercate su Google Blue Caliphs su Google e ci trovate già un sacco di cose. Benissimo, e quindi anche per entrare in possesso di questo T-Runner vale veramente la pena. Allora, noi come di consueto, Andrea, lasciamo i microfoni aperti e voi vi sfogate ancora per 5 minuti. Nel senso non che chiediamo altro. ci piace assolutamente la vostra musica, quindi cosa ci regalate in fin di trasmissione? Chiudiamo proprio con un pezzo che è proprio uno dei nostri cavalli di battaglia e forse è stata proprio anche la ragione per cui sono entrato nei Blue Caliphs, perché dalla taverna era venuto fuori proprio il demo di questa e mi aveva proprio conquistato. Si chiama Midnight 22. Allora, noi salutiamo da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. È veramente tutto. Vi lasciamo in compagnia di Le Blue Caliphs. Questo pezzo si intitola Midnight 22. E vi salutiamo. Microfoni aperti alle Blue Caliphs. Grazie ancora, ragazzi. Are passing by, and if you do trust in me, I'll be the one chasing the clown. Oh, and you and me, but you're still driving down the road of company. I'll say he and she. She's still trying to find her own way to be. Everything seems so far away now, and all we have to do is not go back at the past. But if you do trust in me, I'll be one chasing the cloud. Oh, and you and me, she was still driving down the road of company. And I say he and she, when she was still trying to find her own way to be. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.